1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, allora siamo pronti a leggere i giornali e poi tratteremo vari temi, torneremo sull'attualità politica, la questione del petrolio, parleremo ancora di pensioni, avremo il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, ospite alle 8:40, insieme a Oscar Giannino, per parlare insomma di questa ipotesi che c'è, non c'è, appare, scompare, verrà fatta, non verrà fatta, del prelievo dalle pensioni più alte e la proposta Boeri, chissà, no, non verrà fatta, non verrà fatta. Boeri, ma non verrà fatta. Boeri, ma no, Boeri, ma vabbè, insomma, dai, andiamo a leggere i giornali. Allora, sono le 7:19 minuti, eccoci qui in questo martedì 5 aprile. I titoli: Il Sole 24 Ore apre sul fondo monetario, rischi da Cina e Brasile. Questo per il fondo, il peso dei paesi emergenti che aumenta le possibilità di contagio sui mercati finanziari. La questione poi dell'inchiesta di Potenza, la direzione del PD, questi sono gli ingredienti dei titoli dei maggiori quotidiani. Corriere della Sera, Renzi accusa i PM di Potenza, mentre Repubblica, scandalo petrolio, Renzi sfida i giudici, Boschi ai PM, non ho subito pressioni. Il Fatto Quotidiano, Renzi dichiara guerra ai PM che osano disturbare la Boschi. Per Libero, Renzi cade nel pozzo. Stampa, petrolio, tutti no della Boschi ai PM. Avvenire, Renzi sfida i giudici, PD diviso sulle trivelle. Il Messaggero, i PM dalla Boschi, Renzi li striglia. Vedete che i titoli sono più o meno tutti simili. È Il Giorno, Renzi, trivella, PD e toghe. Per Il Manifesto c'è la foto di Renzi e la Boschi, onnipotenza, questo è il titolo. Mentre L'Unità, in alto a sinistra, è il contropiede del PD al Nazareno, si discute, ma tutti uniti a testa alta contro destra e grillini. Beh, questa è una visione un po' da giornale di partito, tutti uniti non mi sembra, visto che ieri appunto c'è stata anche molta critica, uno su tutti Cuperlo ha detto non sei adeguata a fare il leader a Renzi. L'apertura del giornale invece, da qui voglio approfondire, è la questione dei Panama Papers, gli 800 italiani con i soldi a Panama, questo è il titolo del giornale, nella lista non solo VIP e politici, l'Agenzia delle Entrate chiede nomi e cifre. Eh sì, perché c'è un fronte mondiale, se volete, su questi Panama Papers, cioè i file di tutti coloro che hanno i soldi a Panama, presunto paradiso fiscale. Non è che avere i soldi a Panama, lo diciamo sempre, di per sé vuol dire aver commesso qualcosa di sbagliato, però è chiaro che il sospetto c'è. Allora, la reazione mondiale, la reazione italiana. La reazione mondiale è perché sono stati scoperti vari leader, lo stesso Putin l'ha messo molto chiaro, è la CIA, è un complotto della CIA, questo proviene dalla Russia. Sapete che Putin, che non è mai citato dai conti a Panama, ma a lui sarebbero riconducibili 2 miliardi di dollari, questo secondo alcune testimonianze. Mentre invece il balbettio del premier islandese Gunnlaugsson, il premier scoperto in diretta TV, l'abbiamo sentito in un'intervista, lei ha soldi in zone offshore, ma insomma ha balbettato così, poi ha spiegato non ho mai pensato di dimettermi, comunque sì, ha definito un errore, racconta il Corriere della Sera. Certo, questo piccolo paese magari un po' trascurato, l'Islanda, che però ha questo problemuccio con il suo premier. Michel Platini, ex capo del calcio europeo e in qualche modo anche mondiale. Lionel Messi ha utilizzato la classica formula a mia insaputa, non ha detto proprio così, ma ha detto io firmo ciò che mio padre dice di firmare. Quindi Lionel Messi, grande campione, ha i soldi a Panama. Attenzione, perché spunta anche l'Inter. l'Inter. No, non lo dico tre volte per carità, poi l'Inter ha smentito, ma secondo l'Irish Times spuntano soldi dell'Inter. Oh, questo io almeno titolo, leggo dai titoli. L'Inter e una società di Finmeccanica compaiono tra i documenti offshore. Mario Gerevini e Giuseppe Guastella lo raccontano a pagina 9 del Corriere della Sera. Pensate, è curioso, è l'irlandese Irish Times, secondo il quale tra le carte panamensi farebbero capolino, oltre a nomi di una ventina di attuali ex calciatori del passato e del presente, anche appunto proprietari, vecchi e nuovi proprietari di club di calcio del calibro dell'italiana Inter e dell'argentina Boca Juniors, anche se dall'Inter, bisogna dire, filtra la replica di assoluta tranquillità. Si dice anche assolutamente tranquillo anche Jarno Trulli, ex pilota di Formula 1, che viene intervistato nel Corriere della Sera, pagina 9, dice: sì, ho investito lì i frutti del mio lavoro a Panama, non c'è nulla di illegale. Gli investimenti all'estero, se dichiarati, sono legali e questo dovete scriverlo. Non è il mio caso, il caso di evasione fiscale. Io ho fatto investimenti, non ho nulla da nascondere, sono azionista della Basker Street S.A. su suggerimento di alcuni consulenti immobiliari. Vivo a Lugano, non ho problemi. Come andrà a finire questa storia? Per me bene, non c'è nulla di illegale. Quando ho letto la notizia e il mio nome, mi sono fatto una grassa risata. Così Jarno Trulli, intervistato da Daniele Dallera, racconta: non ha nulla da temere per questi soldi a Panama. Ora però l'Agenzia delle Entrate ha tra i nomi è comparso anche Almodovar, il regista Almodovar. Comunque è caccia i nomi. Da un certo punto di vista, certo che caccia i nomi anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate vuole i nomi degli italiani. E tra l'altro il sottosegretario Zanetti dice: questi 800 connazionali li aspetta una profonda tribolazione. Sottosegretario all'economia, intervistato a pagina 11 del Corriere. Tra gli 800 italiani ci sarà qualche contribuente onesto, ma non ci vuole molto per capire che la maggior parte di loro sono evasori. Così li bolla Zanetti. E se non hanno sfruttato la finestra per l'emersione dei capitali all'estero appena chiusa, li attende un periodo di giusta e profonda tribolazione. Capito? Voi che avete soldi forse a Panama? Profonda e giusta tribolazione, questo vi aspetta, lo dice il sottosegretario all'economia Zanetti. Intanto, cari ascoltatori, lasciamo questa notizia che magari approfondiremo, se volete, anche con Oscar. E mi ha colpito la pagina dedicata al Corriere della Sera a Salvatore Riina, Giuseppe Salvatore Riina, per la verità, figlio di Totò Riina, sì, quel Riina, perché Riina Junior, chiamiamolo così, ha scritto un libro che uscirà tra due giorni, Riina Family Life, la mia vita con mio padre. Giovanni Bianconi lo ha incontrato a Padova, dove lui ha scontato una condanna per associazione esterna alla mafia, poi vive lì a Padova, ha libertà vigilata, divieto di lasciare la provincia e uscire dalle 22 alle 6. È una pagina molto intensa che vi segnalo, per carità, queste cose non è che uno deve girare la faccia, magari leggere, poi dare un proprio commento, ma leggerla intanto. Tra febbraio e marzo 92, passammo notti intere insonni davanti alla TV a seguire il Moro di Venezia a gareggiare nell'America's Cup. Così iniziano i ricordi di Giuseppe Salvatore Riina. Sono proprio il periodo in cui Totò Riina pianificava e ordinava l'omicidio di Salvo Lima. Poco dopo, il 23 maggio, la strage di Capaci, la TV era accesa su Rai 1, ricorda il figlio di Riina. Il telegiornale in edizione straordinaria andava avanti da un'ora. Non facemmo domande, ci limitammo a guardare lo schermo. Il viso di Falcone veniva riproposto ogni minuto. C'era un cratere fumante pieno di rottami. Eppure mio papà Totò era a casa. Stava seduto sulla poltrona, in silenzio, non diceva una parola, ma non era agitato o incuriosito da quelle immagini. Sul volto qualche ruga, appena accigliato, ascoltava pensando ad altro. Era stato lui a decidere quella strage. Poi il 19 luglio, la strage di Via D'Amelio. Fu uno di quei giorni in cui mio padre preferì rimanere a casa ad aspettarci, eravamo in vacanza. Negli ultimi mesi era diventato più attento alle uscite in pubblico. Il magistrato Paolo Borsellino appariva in un riquadro e mia sorella Lucia, 12enne, era colpita e disse a mio papà: «Papà, dobbiamo ripartire?» «E perché vuoi partire?» rispose il papà, finalmente rompendo la tensione. «Voi pensate a godervi le vacanze?» E rimanemmo al mare ancora un po'. È anche l'eccidio di Via D'Amelio raccontato dai ricordi del figlio di Totò Riina. Lui che dice: «Non è competenza mia dire se è stato mio papà il capo della mafia oppure no. Lo stabiliscono le sentenze. Io ho voluto solo parlare d'altro, della vita di una famiglia che è stata felice fino al giorno del suo arresto, raccontata come nessuno l'ha mai vista e conosciuta. Non voglio parlare delle vittime. Qualunque cosa dicessi sarebbe strumentalizzata», dice ancora il figlio di Riina. E ancora: «Non ho mai chiesto nulla. Siamo stati cresciuti, abituati a non chiedere. Si potrebbe chiamare cultura mafiosa», dice Giovanni Bianconi. E lui: «Io invece lo chiamo rispetto, un'educazione e valori magari arcaici e tradizionali che però a me piacciono. Valori forti e sani». Così, Riina Family Life, Giuseppe Salvatore Riina, il libro esce dopodomani, è anticipato con questa pagina del Corriere della Sera. Oh, io ieri ho parlato di questa vicenda di Formigoni. L'avete visto il video di Formigoni? Ieri ve l'ho anticipato, ma una roba, secondo me, è già nella storia della televisione. Formigoni che con la Iena Filippo Roma combatte come in 3 round di una... come un wrestler ben quotato e tra l'altro anche fisicamente ben piazzato, perché nel rubare il microfono poi non cede di un millimetro in questa intervista surreale che continua. Vogliamo sentire un pezzettino? Ce l'abbiamo questo pezzettino di Formigoni con Filippo Roma, perché è questa zuffa che... E Formigoni dice a Repubblica: «Mi sono difeso, ricevo molti elogi per questo tipo di... reazione che ho avuto. Mi massacrano i miei avversari, ho ricevuto molto complimenti dagli amici. E sì, ho avuto una reazione fisica. Io voglio dire, e voglio che sia chiaro, che mi sono difeso da un'aggressione. E ora tutelerò me stesso e valuterò come comportarmi nei loro confronti, nelle Iene». Insomma, intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, Formigoni dice: «Mi sono difeso e ricevo molti elogi». Ma lei vuole una denuncia per rissa? No, rissa, buono. No, io sto prendendo il mio gelato, eccolo qua. Eccolo qua, insomma, Formigoni. E inizia così, inizia questa battaglia con la Iena Filippo Roma per 2 minuti, perché gli ha strappato il microfono. Le conviene mollarlo al microfono, è già nella storia. Cos'è la scena? Pure un po' erotica. La scena un po' erotica. Filippo Roma, geniale come sempre, approfitta e trasforma quella situazione surreale in un pezzo di storia della TV. Vabbè, dai, arriviamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, raccontato dal Corriere della Sera, pagina 22. Claudia Voltattorni racconta la storia di un elettricista di Pontecorvo che è stato in pronto soccorso 27 ore a Cassino, in provincia di Frosinone, 27 ore senza staccarsi dalla barella, così, in attesa sulla barella. E perché in attesa sulla barella? Doveva fare degli esami, non c'era il letto, in attesa sulla barella. E perché? Perché gli infermieri mi dicevano: «Non ti alzare o perdi la barella, non ti alzare!» Cioè, vi rendete conto? Non c'era il letto, c'era una barella. «No, no, non lasciare la barella o la perdi, perdi il diritto al posto». Ma che è? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: «Sono cose che capitano». Alessandro mio, alla catanzarese, Alessandro mio, che vama te dico, che vama te dico io. Quando lei è il giornale, Alessandro mio, a me ti ricordi, con l'occhio te veo, e con l'altro te coglione io. Va bene, cari ascoltatori, siamo qui, mandate la vostra sigla al 349-238-6666 via WhatsApp, che così si sente chiara come questo nostro ascoltatore. Allora, ieri c'è stata la direzione del PD e Renzi ha attaccato dicendo i PM di Potenza mai a sentenza. Hanno insomma fatto tante indagini. Per la verità ieri c'è stata proprio una sentenza di primo grado per una vecchia indagine portata avanti dal PM Woodcock e iniziata 8 anni fa. Comunque, due sono gli aspetti: l'aspetto della inchiesta vera e propria e la questione delle reazioni politiche. Michele Emiliano racconta Emilia Patta sul Sole 24 Ore a pagina 4. Emiliano, governatore della Puglia antitrivelle, che pure precisa di non essere uno della minoranza, che usa parole simili a quelle del Movimento 5 Stelle quando giustifica così il suo no alla mozione del segretario del partito. Le sue argomentazioni sul referendum e emendamento Tempa Rossa ricalcano pedissequamente quelle delle aziende petrolifere, non tengono conto degli interessi di cittadini e territori. Ma poi c'è anche Gianni Cuperlo, che con toni a lui inusuali accusa Matteo di non essere all'altezza del ruolo. Non ti stai mostrando all'altezza del ruolo, ti manca la statura del leader, anche se coltivi l'arroganza del capo. E poi anche Roberto Speranza, ma Roberto Speranza è stato critico magari più volte. Diciamo che questi sono gli aspetti che Emilia Patta dice fanno capire che all'interno del Partito Democratico cova e c'è stata una direzione certamente difficile, una direzione nella quale Renzi ha accusato i magistrati di Potenza. Poi dice: vedo che i giornalisti dicono che ho attaccato la magistratura, ma non li sto attaccando, dico solo che non ci vogliono 8 anni per andare a sentenza. Questa è la chiusura della sua replica. Renzi poi ha detto: noi non siamo schiavi delle lobby, le multinazionali creano 1.200.000 occupati, il 14% del PIL, il 25% dell'export, e comunque noi non siamo come gli altri, se qualcuno ruba si proceda e si metta in galera. Certo, però è stata appunto una direzione difficile nella quale Renzi ha attaccato i PM, non vanno mai a sentenza, ha parlato di inchieste a Potenza quasi come le Olimpiadi ogni 4 anni, hanno saltato solo quelle del 2012, ha ironizzato. Dall'altra parte c'è stato l'audizione, bisogna dire dal punto di vista tecnico, l'audizione al ministro Maria Elena Boschi, che proprio ieri è stata sentita dai magistrati di Potenza che erano in trasferta a Roma. Una Maria Elena Boschi comunque si dice tranquilla e serena dopo aver parlato con i magistrati. La Boschi ai PM, governo corretto, questo è il titolo sintetizzato da Marco Ludovico a pagina 5 del Sole 24 Ore. È interessante però leggere il retroscena di Goffredo De Marchis su Repubblica, perché la strategia del Premier nel rapporto con le toghe. La questione è questa, ma insomma un Renzi che attacca i magistrati, a qualcuno ha ricordato anche Berlusconi. In realtà lo stesso Renzi, e questo il retroscena, ai suoi dice: ma possibile che non si possa dire una parola sulla giustizia perché c'è stato lui, Berlusconi? Non è possibile, quei 20 anni sono finiti, talmente finiti che Berlusconi conta pochissimo ormai nel dibattito pubblico. Dobbiamo liberarci da questo tabù. E poi detta la linea: basta farsi umiliare nel rapporto con le toghe. Anche il richiamo a Berlusconi ogni volta che qualcuno apre bocca non funziona più, è vecchio, è superato. Questo è il pensiero di Renzi. E dunque un Renzi che tira dritto in qualche modo, così come appunto Maria Elena Boschi. Se leggete la pagina successiva, pagina 4 di Repubblica, i PM dalla Boschi nell'ufficio del Ministero, le toghe dicono era necessario, questa è l'unica dichiarazione che fanno, mentre il Ministro per i rapporti col Parlamento dice: sono tranquilla anche perché non avevo e non ho nulla da temere da questa vicenda, era necessario solo fare chiarezza. Queste le uniche parole neanche pubbliche dette ai colleghi del Partito Democratico, la Maria Elena Boschi, quando arriva alla direzione del PD. Comunque la verità, state tranquilli, la dirà anche pubblicamente, perché stasera Maria Elena Boschi sarà ospite di Porta a Porta, così almeno annuncia il Corriere della Sera. Quindi nella terza Camera italiana del Parlamento, Porta a Porta, Bruno Vespa Eccola qui la versione di Maria Elena Boschi questa sera. Tra l'altro, per quel che riguarda l'inchiesta, l'articolo più interessante, a mio modo di vedere, Antonio Massari, lo trovate a pagina 4 del Fatto Quotidiano, perché c'è un quarto filone su cui indaga la Procura di Potenza. Il quarto filone è questo, l'altra bomba di Potenza, i PM sulle primarie del PD. L'ombra dell'ex sindaca di Corleto Perticara, Rosaria Vicino, che ha gli arresti domiciliari per l'inchiesta su Tempa Rossa e che si sarebbe adoperata, secondo la Procura, in occasione delle elezioni europee amministrative al fine di agevolare le elezioni di candidati del proprio riferimento politico. Insomma, si indaga sulle primarie del PD in Basilicata. Questo è il quarto filone della Procura di Potenza. E come ha riassunto Iena bene oggi sulla stampa, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per dei boschi oscuri che la diritta via era smarrita. Renzi, questo è il titolo. E con questi versi poetici vorrei introdurre il nostro Mauro Meazza dicendo che a Panama. Mauro? Buongiorno, buongiorno, ma forse c'è un contributo, spunta Alessandro? L'Inter. C'è un contributo a questo proposito dall'amico vediamo, Peter Bescapè. Vediamo. Ecco, infatti pensavamo proprio a questa cosa. Voi comunque, lo sapete bene dov'è. Se vuoi chiarire, d'altra parte è un posto dove mi risulta ci fossero giocatori del calibro di Messi e Platini, e quindi giustamente l'Inter bisogna andare a prendere i giocatori forti là dove stanno. Giusto. Se vuoi capire però di più di questa vicenda, gli aspetti anche del fisco, eccetera, leggi avidamente, se vuoi, il Sole 24 Ore, a pagina 8 di oggi, il fisco caccia gli 800 italiani nelle liste e tutta la spiegazione anche sul CRS, sul Common Reporting Standard dell'OCSE e tutte le implicazioni che possono esserci, ne riferiscono Marco Bellinazzo e Angelo Mincuzzi. Oggi sul Sole 24 Ore tutti i dettagli, lasciamo stare queste piccinerie calcistiche che mi sembrano un dettaglio rispetto alla portata della cosa. Ottimo, hai preso i tuoi soldi, non i tuoi soldi nel senso del tuo portafoglio, ma il corso di educazione finanziaria. Che è oggi in edicola con il Sole 24 Ore. No, perché te lo chiedo al bar, se no. Se no poi dopo vieni a cercarmi per chiederlo a me. Allora, sappi che oggi ci occupiamo di pensioni e assicurazioni. Poiché la vicenda ti sta emozionando, sento che fai cori da stadio, allora leggi così hai tutti i dettagli sul funzionamento anche del sistema previdenziale e delle coperture di tipo assicurativo. Solo oggi, solo con il Sole 24 Ore, in edicola, non da me al bar, in edicola, Alessandro. Ti voglio segnalare, qui Radio Fisco, che abbiamo le indicazioni delle entrate per i forfettari. Wow! È importante, perché c'è un nuovo regime di agevolazione e le entrate hanno spiegato come si accede venendo da regimi differenti, agevolati o meno. No, tutto scusa, stavo dicendo wow perché stavo rispondendo wow a due ascoltatori, Andrea e Daniela, che ci ascoltano con simpatia da Delhi. Ah, pensavo Delhi. Da Panama anche loro. No, da Delhi. Wow, ho risposto in diretta su WhatsApp. Molto bene, siamo fieri che queste amenità che diciamo, credo che abbiamo difficoltà forse a trovare i tuoi soldi lì a Delhi. Adesso sì, a Delhi, chiederò sì, la distribuzione se interveniamo. Poi ti raccomando, leggi come sempre devi fare le pagine di finanza, laddove tra le altre cose apprenderai che sono in corso le trattative con Bruxelles per risolvere questo problema degli indennizzi delle banche cosiddette risolte, cioè insomma sottoposte a risoluzione, e gli indennizzi per i risparmiatori che sono rimasti coinvolti da queste risoluzioni. C'è fiducia sulle trattative, ma ci spieghiamo tutto in finanza. E infine, ultimo ma non per questo meno importante, oggi è martedì. Condominio. Esattamente, e ti segnalo soprattutto la responsabilità per l'incuria del pluviale. attenzione all'incuria del pluviale, perché poi, caro mio, ti tocca risarcire. Tutto ciò premesso, vado perché devo andare a Panama e non vorrei trovare traffico. Ciane, pista sulla radio, cadesga Alessandro Milan, quel che leggi giornali tutti i mattini, il dissemper debosciati, che le menchele, dialetto brianzolo. Vabbè, brianzolo è anche quasi milanese. Allora, cara ascoltatrice, grazie davvero. Allora, la questione delle pensioni, torneremo sulla questione delle pensioni con Filippo Taddei, responsabile economico del PD, oggi su Libero. Tutti coloro che attaccano Boeri, tutti coloro che attaccano avranno in Valentino Denardo un loro idolo, un loro paladino. Valentino Denardo, chi è? A Libero, presidente di sezione della Corte di Cassazione, dice: la pensione è un diritto quesito, diritto quesito, salvo quando ve la toccano al ribasso, diritto quesito disciplinato da un accordo tra cittadino e lo Stato, e dunque è stato concluso questo accordo al momento della sua conclusione. Il rapporto di lavoro si è ormai definitivamente esaurito e trasformato nel diritto alla liquidazione della pensione, e quindi è tutto assimilabile a un contratto privato, e qualsiasi tentativo di modificarlo configurerebbe di fatto una grave responsabilità per inadempimento. E quindi sarebbe un atto dittatoriale quello di toccare le pensioni più alte, così dice questo presidente della Corte di Cassazione. Vabbè. Allora, vi segnalo per la politica forse un vertice di centrodestra tra Berlusconi e Salvini, forse, ma non si sa quando. Ecco, questa è la nebulosa nella quale si interroga e si muove il centrodestra in questo momento, con ieri Berlusconi che ha inaugurato una pista ciclabile ad Arcore insieme al sindaco della sua città, che peraltro è del Partito Democratico. E alla frase «Ma perché non ci pensa anche lei, Berlusconi, alla bicicletta?», Berlusconi ha risposto: «Vista la mia età, sarebbe meglio un triciclo». E vabbè, comunque, questo nel centrodestra. Mentre Beppe Grillo oggi scrive una lunga lettera sotto una forma strana sul Fatto Quotidiano, pagina 9, un'intera pagina, in realtà è una sorta di dialogo immaginario tra Beppe Grillo e il suo neurologo. Il senso di questa lunga e corposa pagina è: perché la gente rimane sorda anche se abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? E spiega Beppe Grillo che è un po' una questione neurologica, e cioè se noi continuiamo a dire che abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, la gente non ci crede, cioè la gente dà per scontato che non è vero. Nessuno rinuncia a 42 milioni di euro, pertanto anche senza dirlo il cervello delle persone non lo rappresenta come reale. Il fatto che Di Maio, Di Battista e gli altri continuino a ripeterlo non fa che rinforzare il rifiuto mentale dei telespettatori, utenti, carne da macello che un tempo si chiamavano cittadini. Se continuano a ripeterlo significa che non è vero. Ecco, in questa spiegazione Beppe Grillo dice, nel suo dialogo immaginario con il suo neurologo, su come funzionano i meccanismi dell'apprendimento del cervello, Beppe Grillo parte da qui per dire: ecco perché la gente non fa passare questo fatto di aver rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi come se fosse una cosa normale o addirittura non vera, no? Non veritiera. Mentre ragazzi oggi c'è una sentenza che viene commentata da Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, che fa davvero sobbalzare e deve essere letta da me. L'insulto generico è il buongiorno di Massimo Gramellini in prima della Stampa. Siete di quelli che ancora pensano che dare a qualcuno dell'uomo o della donna di M puntato sia un'infamia meritevole di querela? Retrogradi. Roberto Pelucchi, giornalista sportivo afflitto da evidente permalosità, si è permesso di denunciare galantuomini che sul sito atalantini.com lo avevano definito infame, bastardo e uomo di merda, per l'appunto. Ma il giudice di Bergamo, perché c'è un giudice a Bergamo, ha rigettato la richiesta con poche ma definitive parole. In ambito sportivo un insulto generico ci può anche stare. Un insulto specifico no, nemmeno lì, ma un insulto generico nel ruttodromo del calcio fa quasi simpatia, specie se lanciato da ultra che si nascondono dietro nomi di facciata. Un accorgimento, scrive il giudice, che toglie carica all'insulto rispetto alle offese fatte con nome e cognome. Se dunque vi assale la voglia di mandar genericamente a stendere qualcuno, non frenate l'istinto, riempitelo pure di M, perché purché a volto coperto e senza declinare le generalità. Va inoltre considerato che il Pelucchi era intervenuto su quel sito per difendere un suo articolo. Decisione che il giudice considera quantomeno imprudente. Chi si mette a correre per strada, scrive il giudice, durante la festa di Pamplona, non può lamentarsi più di tanto se qualche toro lo incorna. Che sarebbe un consiglio saggio se provenisse dal gargarozzo di una vecchia zia. Mentre chi parla è uno che in teoria dovrebbe far rispettare le leggi, invece sta dicendo che quando vieni rapinato in un vicolo buio a mezzanotte, non solo il reato non esiste, ma se lo denunci, sei pure un po' coglione. Insulto generico, precisa in chiusura, Gramellini, generico. Vabbè, succede questo. Prima ho citato la bicicletta e Berlusconi che inaugura la pista ciclabile. Vi segnalo, so che ci sono tanti ciclisti in questa disfida tra macchine e biciclette, motorini, scooter, macchine e biciclette. Tanti ciclisti ci seguono. Allora vi segnalo la Repubblica, una pagina, pagina 23, lo stop dei sindaci. Storie di tutta Italia di sindaci che non ne possono più delle violazioni del codice della strada fatte dai ciclisti. Tante volte li vedi, arrivano contromano, no? E pensano, siccome sono su una bicicletta che è sana mentre tu sei uno sporcaccione che va in macchina, però nel senso giusto, ti passano contromano e ti fanno e tu dici, e se ti investo, tu sei contromano. Poi ti evito, perché per carità ti voglio bene, non voglio mica schiacciare una persona, però non è che siccome la bicicletta puoi andare contromano, pirla. Perché sennò è a tuo rischio e pericolo. Adesso mi subisseranno di insulti. Va bene, eccoci alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate, Chiara Maffioletti dedica una pagina, ma non mezza, ma non un quarto, ma una pagina intera al selfie di Kim Kardashian che si mostra nuda e fa partire, secondo il Corriere, il dibattito, ma esibire il corpo è segno di forza? Ma chi se ne frega!